microfoni, sono molto delicati. I giorni prima erano in gara ai mati, andavano in volte e erano in gara ai mati. Quello che vengono faccio quello di coso adesso. Ho un litro di quello di coso, di ossi. Due litri di un altro tipo. Quello di Falchetta ve l'ho già bevuto tutto. Ti vuoi passare già che su canela da me, uia. Beh, non lo so. Ma non assaggio più, se non diventa alcolizzato, non mi picco di vino. Adesso può bere di vino, boh. Un bicchiere a pranzo fa bene. Fa retrato, eh. Mi dovi. Falchetto. Sì, mi già. Ma cosa stai facendo, bianco o rosso? Oh, rosso, grazie. Rosso di sera, per tempo si sera. E tu metti un attimo di bianco. E io ho detto, boh, ma se più vede, bianco o rosso? No, sono andato a pagare la luce delle scale del condominio, l'ha visto la signora di su. Niente, appunto sono sceso, ho riempito l'altro bicchierino e siamo qua, dai. Va bene, allora tutto a posto, dai. Adesso preparati di appagare i bulli delle macchine. Calmo. Tanto che tu mesi è una perburia, tra bolli, luce e compagnia varia, guarda che ce n'è anche l'affitto ovviamente. Io quello non lo pago, vabbè, ma ci sono con quali di luce, con quali di acqua, con quali di quello, con quali di condominio, con quali dell'altro, boh. E tu mesi è pesante, così a tu. Non c'è un nesso, non c'è niente, non, Poi Biagi non mi attira quella frequenza lì, c'è proprio troppo fredda come frequenza, invece a poi ridere, scherzare, dire la tua, insomma è diverso. Dipende come si svolge l'attività, Biagi. Tu perché io ho sentito il continente invece che diciamo ci sono altre cose che chiacchierano, così sono dei kit che scattano di montaggio, tutte cose belle, non so tutto, come ti colleghi, io 160 metri, mi collego sugli 80, sui 40, sui tutti con le luci ricevitore e ascolto tutte queste cose qui. E non mi posso permettere di entrare, perché sono già la parte di comunque c'è anche il trasmettitore. Quindi stavo infatti facendo delle prove con carico fittizio. E niente, perché tu aderisci? Io sono del parere gira di Gianni, perché no, non è che mi interessi tanto, Caprido. Sono del parere che nella 27 puoi scherzare, puoi ridere, puoi fare, ma lì mi sa che deve essere una persona molto più seria. No, niente, Caprido, non se ne fa niente, dai, sto bene qua nella 27, cambio. Ok, no, se no io ci capito, ma no, non mi interessa dimostrare niente, anche perché se io prendo la patente mi toccherebbe cambiare apparecchiatura, spendere altri soldi, prendere altre antenne, già mi hanno, ho dovuto lottare per piazzare questa del baracchino, figurati se me ne farò piazzare altre, quindi è tutto un problema per me. E lo so già, io no, io non voglio fare giusto perché Thank you. perché sono di gente che ce l'ha, bisogna di poco per andare sui 45, capito? No, ma io adesso facendo solo ascolto di nazionale, poi 145, 525 o 625, parlo della diamatura di Sassari e ogni tanto ascolto, perché ho amici e li ascolto. 625 mega, confermi? Cosa? Sto parlando 625 mega, 525, ma mi sto confondendo, scusi, vabbè, mi sono impappinato. Ok, io come frequenza c'ho anche l'altra, c'ho il mid-band anche. 45, 525 oppure 625. È praticamente il monitor della diamante di Sassari, ascolto qui, tutte queste cose qua, non è che... No, boh, vedi, sì che ascolto il monitor di Sassari, è già un'altra cosa, la frequenza del monitor, lì parlano di tante cose, scartano anche, eccetera, ma le queste altre bande sono troppo serie. Okay. fumano a 6,50 che invece che 6,25. Io ho detto 45, 525, 145, 625.